Investire informati. Diamo il ben tornato a Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management. Ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Mi sbaglio sempre l'accento, è management, giusto? Come lo dite? E allora 800 24 00 24, il numero verde che come sempre segnalo e ricordo ai nostri ascoltatori che vogliono intervenire in diretta, se vogliono commentare con noi i temi di questo periodo che movimentano le giornate di borsa, l'andamento dei mercati e non solo. Peraltro nella prima parte di Cuore Denari, dottor Alfieri, questo glielo ricordo, lei forse non l'ha sentito perché stava arrivando qua, abbiamo parlato di questa stretta che il ministro della sanità, della salute Lorenzin, ha fatto sulle prescrizioni mediche, ha invitato i medici a prescrivere un po' meno analisi, molte di queste sono ritenute inutili, ma soprattutto per i costi che hanno sul servizio sanitario nazionale. È stato richiamato più volte il termine questa mattina di appropriatezza anche degli esami clinici e mi ha fatto pensare che effettivamente anche questo è un tema che mette insieme molto bene Cuore e Denari, la salute e il risparmio, perché anche secondo i criteri di questa direttiva europea MiFID, degli investimenti suggeriti ai risparmiatori devono essere caratterizzati da questo atteggiamento del consulente che deve far fare delle scelte secondo dei criteri di appropriatezza, no? No, sì, assolutamente corretto. Diciamo che appunto negli ultimi anni si è andato verso una maggiore cautela nella modalità in cui non solo viene informato l'investitore, ma anche viene consigliato verso i propri potenziali investimenti finanziari. Bisogna costruire cioè un portafoglio che sia adeguato alla sensibilità al rischio, ma anche alle caratteristiche finanziarie e patrimoniali del cliente sottostante. Allora, 800 24 00 24, ribadisco il numero verde al quale potete intervenire per commentare i fatti finanziari. Stavo notando tra le persone che stanno telefonando che c'è chi ritorna sulla vicenda che abbiamo affrontato ieri, la questione della Banca Popolare di Vicenza, le notizie giudiziarie, le modalità con cui queste banche hanno fatto sottoscrivere azioni ai propri clienti e quant'altro. Quindi invito queste persone magari a scriverci in privato, perché per un commento su queste situazioni, per l'appunto, magari vi possiamo far fare un commento a microfoni spenti. Non è questo l'argomento di stamattina, poi se naturalmente Alfieri vuole anche cimentarsi su questo lo potrà fare liberamente più tardi, però volevo partire dagli altri temi che oggi caratterizzano un po' le pagine della cronaca finanziaria dei giornali. Intanto mi ricordo che in una delle ultime puntate che ho fatto con lei le avevo chiesto se in estate sarebbe andato in vacanza in Spagna o in Grecia, ovviamente ridendo un po', scherzando sulle notizie che riguardavano quei due paesi dove avanzavano i partiti di protesta. Podemos in Spagna, avevamo commentato a lungo anche l'accordo con i creditori internazionali della Grecia. Oggi, sempre un po' con questa partenza folcloristica che ho scelto di fare con lei, le chiedo che autovettura guida Alfieri. A questo punto prenderei il treno, per evitare rischi di qualsiasi genere. E allora, questa è l'ennesima settimana di grande nervosismo per i mercati finanziari, solo che il tema è esploso 3 giorni fa in Europa, proprio nessuno, diciamo, se lo aspettava, no? Possiamo certamente prevedere cosa faranno le banche centrali, un po' le tensioni geopolitiche, il rallentamento economico della Cina, ma certo che lo scandalo Volkswagen probabilmente nessuno se lo aspettava, soprattutto sulle ripercussioni finanziarie che questo sta avendo. Un tracollo del titolo, meno 22% lunedì, meno 19% martedì, ieri un recupero dopo le dimissioni dell'amministratore delegato, anche oggi fa più 3, ma ancora il recupero è molto contenuto rispetto alle perdite dei primi 2 giorni della settimana. Secondo lei gli investitori sospettano che, siccome anche tutto il settore sta andando in grossa difficoltà in questi giorni, secondo lei tutte le case automobilistiche possono aver avuto lo stesso comportamento, o quantomeno questo è il sospetto degli investitori? Alfieri, che ne pensa di quello che è successo, di questo Dieselgate, è stato ribattezzato così tra l'altro? Io vorrei cogliere invece un altro angolo, cioè è sicuramente una notizia, un evento assolutamente imprevedibile, questo lo abbiamo visto, ma mi sembra di cogliere dall'atteggiamento dei mercati finanziari e degli investitori un forte nervosismo in generale. Quindi abbiamo visto come da una notizia peraltro imprevedibile, si siano scatenate poi una serie di effetti anche in mercati o in prodotti di investimento che quasi nulla hanno a che fare con il settore. Questo identifica evidentemente una fase di mercato abbastanza particolare e complessa, dove la volatilità regna sovrana e dove evidentemente si colgono situazioni di mercato in alcuni casi opportunistiche per poi prendere delle decisioni di investimento che provocano forti scossioni o reazioni a catena, magari, ecco, che in alcuni casi sono immotivate o assolutamente immotivate. Quali sono per esempio le ripercussioni immotivate che lei ha visto in questi giorni e che magari noi non abbiamo notato? Ma una correzione generale di tutti i mercati c'è stata, molto forte, si sono innescate ovviamente delle reazioni a catena su asset class, su beni rifugio, dove ovviamente l'origine non ha una sua logica. Se guardiamo ovviamente al segmento specifico dell'automotive, come viene definito, cioè dove si costruiscono le macchine, va bene, ci può essere forse un qualche impatto su case automobilistiche, ma non può essere generalizzato. Secondo luogo, ovviamente questo non significa che da questo momento in poi i consumi si fermano, non è necessario ricorrere all'acquisto di prodotti cosiddetti o beni di investimento rifugio, perché non è questo il caso. Cioè bisogna guardare ovviamente oltre il fatto specifico. Sul fatto specifico sicuramente ovviamente c'è stata una forte correzione. Certo. Corretta. Un po' però il nostro giudizio sulla Germania cambia, no? Su questa locomotiva tedesca che aveva effettivamente permesso anche all'Europa di stare un po' a galla dalla crisi generale, e poi leggevo anche su qualche commento che Volkswagen pesa per l'8% sul settore auto italiano, adesso aspetti, forse ho letto il commento sbagliato. C'è addirittura qualche commento che fanno i manager di molti fondi etici che si stanno chiedendo se escludere il titolo dal proprio portafoglio, insomma poi ripercussioni di varia natura molto interessanti. In concreto l'impatto sull'economia tedesca secondo lei quale potrà essere da tutta questa vicenda? Ma diciamo che in modo ovviamente contingente, per esempio sui listini, è chiaro che il titolo pesa e pesava molto, e quindi abbiamo già visto gli effetti attualmente negli ultimi giorni. Ciò non bisogna dimenticare che ovviamente la Germania è un paese che ha fortunatamente per loro una industria che è presente in tantissimi segmenti, non solo l'automobilistico. Ecco, a differenza di altri paesi, la Germania è per esempio uno di quei paesi dove è molto forte in termini di esportazione su vari tipi di attività, non è legato quindi a solo un tipo di esportazione. Tanto per fare un'analogia, in questo momento stiamo vedendo che molti paesi emergenti che sono molto legati all'esportazione di petrolio stanno soffrendo molto perché il petrolio è sceso, e certo, quindi inevitabilmente c'è un impatto reale sull'economia e sulla forza economica di quel paese. Non è questo il caso della Germania. La Germania ha un'economia molto diversificata, certo ovviamente gli effetti estetici per così dire sono importanti, però non la Volkswagen, non è la Germania, solo la Germania. Allora, intanto volevo anche segnalare ai nostri ascoltatori che vorremmo trattare il tema Volkswagen dal punto di vista proprio del consumatore italiano domani a Cuore Denari, per capire se in qualche maniera questa notizia adesso sta condizionando un po' le scelte di quelle famiglie che adesso stavano meditando di comprarsi l'auto nuova per casa propria. Adesso qualunque auto di qualunque brand si tratti la guarderanno in maniera diversa, pensando anche a questa faccenda dei limiti appunto inquinanti legati alla casa tedesca. Però appunto ribadisco, ne parleremo domani. Intanto invece sui temi di mercato 800 24 00 24, il numero verde che potete comporre per intervenire. Vedo che tra le domande più gettonate, adesso qualcuna gliene passerò Alfieri, c'è tutta la questione legata allo stato di salute attuale delle banche europee, naturalmente anche italiane, perché c'è il famoso decreto sulle bail-in, del quale abbiamo parlato a lungo nei giorni scorsi. Ieri abbiamo risollevato la questione della Popolare di Vicenza, delle popolari italiane che devono trasformarsi in SPA. Magari fra un po' commenteremo anche questo argomento. Detto questo, l'estate invece è stata caratterizzata, visto che con lei rifacciamo un po' un punto generale della situazione, dall'affare cinese. Gli investitori tutti hanno preso atto del rallentamento economico in corso per questo grande paese, per questa economia, della bolla azionaria che si è rotta, che è scoppiata, e adesso il mercato delle azioni tenta di riequilibrarsi su valori più ragionevoli per le società quotate su questo mercato, che è ancora estremamente fragile. Qual è il vostro giudizio in questo momento su quest'area e come rassicurare, dottor Alfieri, gli risparmiatori che contano sulle prospettive economiche di lungo periodo di questa incredibile economia, che però ogni tanto mostra, appunto, come dicevo poco fa, le sue fragilità? Beh, sicuramente la Cina, non ci dimentichiamo, ormai è ai primissimi posti in termini di ovviamente importanza e ruolo commerciale, produttivo e quant'altro. È un paese in notevole trasformazione. Il governo centrale cinese sta cercando di trasformare questa economia in un'economia prevalentemente basata sull'esportazione, in un paese capace di andare avanti, tra virgolette, da solo grazie anche ai consumi interni. È un processo ovviamente lungo, è un processo che ahimè non può essere lineare, ha anche delle, tra virgolette, cadute. La crisi dei mercati finanziari cinesi specificatamente è un esempio ovviamente di una espansione di un'area, uno specifico settore che era quello dei mercati finanziari interni, che era appena nato, possiamo dire nato da poco, quindi sono i primi passi, talvolta si cade, c'è bisogno ovviamente di una maggiore maturità e non si può pensare che questa maturità venga colta nell'arco di poco tempo, ci vuole molto tempo. Quindi noi rimaniamo comunque focalizzati sull'economia cinese, sulla crescita dell'economia cinese, che riteniamo essere solida, potrà continuare sicuramente a un livello più basso, perché l'economia cinese è cresciuta moltissimo e quindi far crescere un'economia molto grossa è sempre più difficile. Quindi sicuramente non avremo quei tassi di crescita a doppia cifra come vengono definiti nei prossimi anni, ma probabilmente una crescita più moderata, ma verso un modello significativamente diverso rispetto al passato. Quindi sono d'accordo con quello che è stato detto prima, la Cina è sicuramente un interessante mercato di investimento, ma con una prospettiva di più lungo termine. Abbiamo l'impressione che, non abbiamo l'impressione, diciamo che lo abbiamo registrato proprio anche con la cronaca quotidiana, questo è un anno a quanto pare ricco di eventi capaci di far stare letteralmente sulle spine la comunità finanziaria. Abbiamo parlato della Grecia, le tensioni geopolitiche complessive e anche la questione del flusso dei migranti di cui stiamo raccontando da svariate settimane è un tema che secondo me non va ovviamente, anche dal punto di vista economico-finanziario, sottovalutato. Abbiamo ricordato prima l'avanzata dei partiti di protesta in tutta Europa, tema che ha caratterizzato soprattutto la prima parte dell'anno: Podemos in Spagna, Tsipras in Grecia con la sua riconferma alle elezioni di domenica, le ricadute su tutti i paesi emergenti della questione cinese, il crollo dei prezzi delle materie prime, poi le azioni delle banche centrali. Ho fatto un sunto molto veloce, dottor Alfieri, per chiederle che cosa significa tutto questo disordine. È la testimonianza appunto di come ci sia una forte volatilità, incertezza quindi da parte degli investitori. Il quadro di riferimento è abbastanza magmatico, non ci dimentichiamo che nonostante le politiche monetarie molto espansive, che ormai durano da parecchio tempo, anni, vediamo che le locomotive, tra virgolette, del mondo, quelle che dovrebbero trainare la crescita, sembrano un po' essersi inceppate in qualche modo. Abbiamo parlato della Cina, gli Stati Uniti crescono però ovviamente in modo abbastanza moderato, l'Europa cresce ma in modo poco convinto, il Giappone anche in questo caso è un'economia che cresce e non cresce. Non parliamo poi dei paesi emergenti, che sappiamo che stanno affrontando un periodo particolarmente difficoltoso. Ecco, è ovvio che lo scenario è quindi non molto nitido, e quando non ci sono dei chiari orizzonti gli investitori diventano molto nervosi, e quindi il nervosismo poi si scarica sui mercati finanziari con oscillazioni molto violente come quelle che abbiamo visto sia ad agosto che anche nei giorni scorsi. Questo è uno scenario dove noi pensiamo, ahimè, con cui dovremo convivere ancora per qualche tempo, fino a quando ovviamente le politiche monetarie espansive non avranno scaricato la loro forza integralmente sulle principali economie del mondo, e quando ovviamente non ci sarà un quadro più chiaro di crescita. Certo che ci sta mettendo molto a scaricarsi questi effetti delle politiche monetarie espansive, tanto che addirittura Draghi, lo ha detto ieri al Parlamento europeo, ha ipotizzato addirittura di continuare con il quantitative easing ancora oltre il termine che si è dato, nel settembre dell'anno prossimo, o comunque quando avrà più o meno raggiunto questo target dell'inflazione attorno al 2% che è nella missione della Banca Centrale Europea. E il fatto che appunto le politiche monetarie espansive non si siano ancora propagate a dovere all'economia reale lo dimostra anche quello che ha detto la Janet Yellen, numero uno della Federal Reserve, la settimana scorsa, quando avevamo atteso con questa sorta anche di ossessione questo meeting della Federal Reserve per capire se potesse essere il meeting giusto per un primo aumento dei tassi di interesse dopo tanti anni. La Yellen ha detto non è ancora il momento di farlo, e pensate che all'ordine del giorno c'era una micromanovra dello 0,25%, per cui dobbiamo attendere ancora un po'. Sui tassi di interesse ci arriviamo fra qualche istante, fra un po' devo andare in borsa, ma direi di sentire anche la nostra prima ascoltatrice di oggi, che è Bice da Modena. Bice, benvenuta, buongiorno. Un pochino avevo anticipato già quella che era la preoccupazione ricorrente fra gli ascoltatori che si stanno candidando ad intervenire questa mattina, quindi la faccio riassumere a lei. Bice, benvenuta. Buongiorno, mi spiace perché ieri mattina ho saputo dalla vostra redattrice che avete trattato il tema, ma io ero all'INPS per vedere la mia situazione, insomma, riguardo quello che ci dovrebbe ridare, vabbè. E non ho potuto sentire. Dice, però, se lei ha una mail e se ci scrive. No, non ce l'ho, sono anziana, vado solo col telefono. Perché poteva riascoltarla la trasmissione. Va bene, dai, immagino. Adesso magari vediamo come possiamo aiutarla diversamente. C'è Marco Lombardo, già il nostro assistente, che vedo annuisce, evidentemente ha già avuto un'idea. Ci dica però quello che voleva chiederci stamattina. Sono preoccupata per l'aggiottaggio della banca di Vicenza, perché vorrei sapere insomma se vengono colpiti anche i conti correnti, anche Dice, guardi, allora, se non è successo niente con Banca Monte dei Paschi negli ultimi anni, sono assolutamente certa che non so, sono un po' più da considerarsi serie le situazioni di chi ha azioni di queste banche che si sono deprezzate per decisione unilaterale delle banche stesse e che difficilmente potranno recuperare il valore di queste azioni sottoscritte, a volte anche in cambio dell'ottenimento di un mutuo o di un finanziamento. Per quello che riguarda i correntisti, Bice, ci mancherebbe altro. Detto questo, siccome ancora la situazione è tranquilla, se una persona si preoccupa ha tutto il diritto di spostare il suo conto corrente, andare a cercare un'altra banca che ritiene più solida. Nessuno vi obbliga con la pistola puntata alla tempia a rimanere qua. Poi se mi sentono, oggi riceverò certamente una telefonata dell'ufficio stampa che mi dice ma che cosa diavolo suggerisci. Io però sto dalla parte delle persone preoccupate, per cui oggi il mercato è assolutamente libero, molto ricco di opportunità, per cui se volete spostarvi fatelo con serenità. Sullo stato di salute dei titoli finanziari europei, Alfieri, oggi che cosa possiamo dire? Insomma, queste banche comunque ancora sono al centro di un po' di preoccupazione. Un giorno ci sono quelle italiane, un giorno quelle sugli altri paesi forse abbiamo un po' meno tensioni. Ma, dobbiamo dire comunque che i presidi che sono stati messi in piedi negli ultimi anni hanno funzionato, sì. Stanno funzionando, e sembrerà strano, ma per noi come investitori una delle aree più interessanti sono proprio i titoli finanziari europei, perché presentano sicuramente un aspetto per quanto riguarda gli investimenti molto appealing, molto interessante in questa fase. Riteniamo che siano ancora sottovalutati rispetto magari ai finanziari di altre aree geografiche. Ci sono in atto dei processi di ristrutturazione molto interessanti, abbiamo visto anche importanti operazioni quindi le prospettive sembrano essere in termini ovviamente di investimento molto interessanti. Quindi tra le soluzioni di investimento i titoli finanziari europei ci piacciono particolarmente. Direi che però, ecco, le scelte su questo campo sarebbe bene che le facessero gli investitori professionali, magari un piccolo risparmiatore se vuole approfittare di questo comparto, come dire, con un atteggiamento un pochino speculativo, lo faccia con un po' di sale in testa, ecco, con cautela, che dice? Beh, assolutamente, nel senso che proprio come ho citato più volte, la volatilità regna sovrana in questi mercati, rimarrà per molto tempo. Avvicinarsi agli investimenti finanziari, ad esempio l'acquisto di titoli azionari da solo, è molto molto pericoloso. Lasciamolo fare ai professionisti che sanno diversificare e sanno cogliere ovviamente anche le opportunità più importanti e interessanti. Cuore e denari. Lo so che siamo anche un po' cialtroni qualche volta, però per rendere un po' digeribili i temi della finanza e della cronaca finanziaria, noi utilizziamo anche delle modalità un po' leggere, perché bisogna fare anche questo per avvicinarvi a questi argomenti. E allora, come sapete, quando è il momento e la giornata della nostra scuola di risparmio, noi cerchiamo di testare anche un po' la vostra preparazione. Ecco perché state sentendo in sottofondo la musica di Rischia Tutto. Vorrei lanciarmi anche oggi nel domandone, però questa volta abbiamo scelto di non fare come il solito, quindi non vi chiederò di richiamare o ricordare un concetto indicato nella prima parte della trasmissione. Vi metto alla prova anche più duramente oggi. Vorrei che vi ricordaste chi sono stati i due molto famosi presidenti della Banca Centrale Americana che hanno preceduto la signora Janet Yellen. I libri della nostra biblioteca andranno solo a chi risponderà correttamente chiamando l'800 24 00 24, per cui avete tutto il tempo, almeno 20 minuti, per andare a cercare sui vostri libri finanziari, se ne avete, o su internet velocemente, ma magari qualcuno se lo ricorda anche al volo, i più appassionati anche delle vicende americane, per cui siamo qua. E poi vedremo se Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia di JP Morgan, vi promuoverà o meno. Allora, Banca Centrale Americana, Alfieri, il focus di fondo dei mercati rimane su questo argomento: tassi di interesse. Cosa faranno le banche centrali? Cosa non faranno? Quanto dureranno queste politiche monetarie espansive? L'ossessione che abbiamo verso la Banca Centrale Americana e le decisioni che deve prendere al più presto, appunto, è sempre il tema all'ordine del giorno. C'era questa attesa enorme sul meeting della settimana scorsa, che si è concluso con un nulla di fatto e un rinvio della stretta monetaria. È stato molto enfatizzato il ragionamento che ha fatto la signora Yellen, che ha detto chiaramente di essere preoccupata per quello che è successo in Cina. Beh sì, diciamo che ha sorpreso abbastanza i mercati e di fatto la volatilità che stiamo cogliendo in questi giorni ne è un chiaro specchio. Il fatto che la Fed generalmente guarda alle dinamiche interne all'economia americana, principalmente ricordo all'inflazione e alla disoccupazione, che tra l'altro sono dei dati e vengono fuori con dei dati particolarmente interessanti, quindi a testimonianza che l'economia americana sta proseguendo su una linea giusta di crescita, non euforica ma comunque consistente. L'apertura verso dinamiche esterne, quindi preoccupazioni esterne all'economia americana, è un fatto abbastanza sorprendente. Riteniamo che comunque la Fed dovrebbe o potrebbe comunque entro la fine dell'anno e il prossimo anno, nel 2016, a meno che non ci siano eventi ovviamente imprevedibili, prendere spunto per un rialzo molto moderato e graduale dei tassi negli Stati Uniti. Attualmente i dati che sono a nostra disposizione sembrano confermare il fatto che un rialzo dei tassi è assolutamente accettabile dall'economia americana. Come può un piccolo risparmiatore prendere vantaggio dalla manovra rialzista sui tassi di interesse? Dottor Alfieri, diamo qualche informazione concreta a chi si interessa a questo argomento e magari proverà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi a riorganizzare il proprio piccolo giardinetto di investimenti in relazione all'andamento e alle decisioni di politica monetaria delle banche centrali. Ma in questo momento di alta volatilità, ahimè, purtroppo non ci sono soluzioni ottimali. È vero che ci sono state delle correzioni, ma comunque pur sempre i titoli obbligazionari sono molto cari, rendono molto poco. Le azioni hanno avuto una correzione, ma comunque abbiamo una fase di forte rialzo che è durato parecchi anni, soprattutto in alcuni mercati, Stati Uniti, Giappone, in Europa ad esempio in Germania. Questo solo per significare il fatto che non ci sono delle soluzioni ideali. Bisogna purtroppo innanzitutto ricorrere a dei professionisti per avvicinarsi ai mercati finanziari in questo momento. Riteniamo che dei prodotti bilanciati flessibili siano una soluzione ottimale, proprio perché bisogna avere, dare un, come si suol dire tecnicamente, un mandato molto ampio al gestore, cioè di sapersi e potersi muovere liberamente sui mercati per cogliere le varie opportunità, senza essere costretti ad investire in una certa asset class in base a dei parametri predefiniti. Bisogna essere molto liberi e questo non può farlo sicuramente il singolo investitore, lo deve fare un gestore professionale che può avere quindi ampio margine di manovra, scelte ed opportunità. Certo. La volatilità che abbiamo visto ad esempio negli ultimissimi giorni a causa dello scandalo a Volkswagen sicuramente è stata penalizzante, ma dall'altra parte ha aperto improvvisamente delle opportunità di investimento proprio a causa di questa altissima volatilità. Quindi se qualcuno si lasciasse, tra virgolette, mi passi il termine, suggestionare dalla sua indicazione e volesse orientarsi su un prodotto di investimento che ha queste caratteristiche, di essere bilanciato e flessibile, ecco, che caratteristiche ha? Immagino che si parli di un fondo di investimento, un fondo di questo tipo, quando è bilanciato e quando è flessibile? No, cosa vuol dire? Bilanciato e flessibile vuol dire che bisogna ovviamente muoversi su tutte le asset class in modo ovviamente non posizionarsi necessariamente solo su un asset class, ma flessibile vuol dire che la posizione, la composizione e la porzione investibile su una certa asset class non è vincolata a dei parametri predeterminati. Faccio un esempio banale: un bilanciato che può investire solo il 50% in azioni e 50% in obbligazioni e sempre unicamente in queste due asset class, in questa quota parte, è un bilanciato ma non flessibile, cioè il gestore sottostante sa che può investire solo il 50% in obbligazioni e sempre il 50% in azioni, non può muoversi liberamente magari in alcune momenti di mercato, vorrebbe aumentare la quota parte nell'azionario ma non lo può fare perché è vincolato. Ecco, in questo momento riteniamo che invece i prodotti flessibili diano ovviamente questo angolo che è molto importante proprio per cogliere opportunità e sfuggire dalla quella volatilità che può portare ovviamente delle forti perdite. Intanto vedo che molti ascoltatori, questo ci fa piacere, hanno colto volentieri la sfida del nostro rischiatutto finanziario. Vi ho chiesto, vi risponderemo fra qualche minuto, vediamo se vi siete guadagnati il nostro volume, quello della libreria di Cuore Denario. Ho chiesto chi fossero, chi sono stati i due presidenti molto famosi della Banca Centrale Americana che hanno preceduto la signora Janet Yellen. 800 24 00 24 per rispondere, per avere diritto al nostro libro. E vedo che ci state scrivendo anche con l'SMS. Noi preferiremmo gli ascoltatori che ci chiamano al numero verde, però eventualmente, insomma, magari oggi saremo più buoni e allargheremo anche il raggio d'azione a chi ci scrive. Tanti ascoltatori invece ci stanno scrivendo di ritornare per un attimo, come state bruciando le domande, ma questo ci fa piacere. La questione greca, dottor Alfieri, perché effettivamente è stato anche questo il nostro tema ossessionante, almeno fino alla fine di luglio, dopodiché è scoppiato il caso cinese e la Grecia è quasi scomparsa dalla cronaca finanziaria, quantomeno non è stato più il tema dominante che condizionava l'andamento delle giornate finanziarie. Eppure la situazione economica e finanziaria di questo paese è identica a quella della scorsa estate. L'accordo con i creditori internazionali contestatissimo, amaro. Tsipras che vorrebbe riaprire il discorso sulla ristrutturazione del debito, il suo consenso ottenuto, un altro bel mandato elettorale appunto ottenuto alle elezioni di domenica scorsa, ma tutto questo per arrivare a chiederle: dobbiamo aspettarci che la questione greca riesploda in tutta la sua potenza con le ripercussioni sui mercati che abbiamo già visto nel primo semestre di quest'anno, o comunque insomma se la batterà sempre un po' con le preoccupazioni cinesi? Ma diciamo che il quadro ovviamente greco è indubbiamente molto difficile e complesso, ma comunque un accordo c'è stato, quindi una fase iniziale di miglioramento c'è stato. Non ci dimentichiamo che la crisi greca si inseriva proprio in una fase di forte rallentamento anche dell'economia europea nel suo complesso. Mm-hmm. È cambiato qualcosa, i dati in Europa sono migliorati, vi ricordo solo che Spagna, Portogallo, anche l'Italia, la Germania hanno dei dati di crescita molto più convincenti rispetto alla prima parte dell'anno, quindi in questo momento gli investitori guardano con minor preoccupazione alla Grecia, perché se siamo in un contesto di crescita europea, tra virgolette, possiamo anche permetterci che la Grecia abbia qualche difficoltà, ma l'Europa può trascinare, può aiutare la Grecia a ovviamente migliorare la propria situazione. Chiaramente se dovessimo nuovamente avere una fase complessa in Europa, probabilmente la Grecia ritornerebbe con le sue criticità interne come primo elemento di destabilizzazione. È chiaro che il quadro complessivo in Grecia è leggermente migliorato, c'è stato un accordo tra creditori e debitori, il governo sembra più stabile dopo la recentissima elezione, quindi in questo momento ci sono tutti i presupposti perché anche la Grecia possa ricomporsi in una diciamo su una traiettoria di crescita interna, che è quello che è fondamentale per ricucire lo strappo. Lo so che è tardissimo, dobbiamo sentire il traffico. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Strade in diretta. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Al sud sulla statale 106 Ionica, a causa di un incidente segnaliamo traffico bloccato tra Soverato e Copanello in entrambe le direzioni. Per lo stesso motivo sulla 3 Napoli-Reggio Calabria si registra traffico rallentato a Catanzaro in direzione Napoli. Spostiamoci in Abruzzo sulla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori si procede in coda per 1 chilometro tra Pescara Nord e Atri e tra San Benedetto del Tronto e Grottammare, in entrambi i casi in direzione Bologna. In Toscana sulla 1 Milano-Napoli rallentamenti per un veicolo in panne tra Barberino di Mugello e Roncobilaccio verso Milano. Andiamo al nord, in Liguria sulla 7 Milano-Genova, per lavori si rallenta tra Genova-Bolzaneto e Busalla verso Milano. E sono sempre dei lavori in Lombardia sulla tangenziale est di Milano a causare code di 4 chilometri tra via Rubattino e Cascina Gobba verso Lecco. Infine sulla 22 Brennero-Modena, sempre per lavori, si procede in colonnati per 4 chilometri tra Vipiteno e il Brennero e tra Trento Sud e Trento Nord verso il confine di Stato. Vi ricordo che ulteriori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito di Radio 24. È tutto, a più tardi. State ascoltando un programma offerto da Uliveto ti aiuta a digerire, Rocchetta ti depura. Uliveto e Rocchetta, acque della salute. Cuore e denari. Eccoci ritrovati a Cuore Denari, l'ultima parte del nostro programma dedicata ad investire informati. Vi ripropongo intanto velocemente il nostro domandone. Siete in tanti. invitati a scriverci e a risponderci alla domanda che è questa: chi sono stati i due famosi presidenti della Banca Centrale Americana che hanno preceduto la signora Janet Yellen? 800 24 00 24, il numero verde per le vostre risposte. Vi ho fatto questa domanda proprio perché il tema dei tassi di interesse americani è il tema guida dell'orientamento della comunità mondiale, direi, degli investitori da molto tempo a questa parte, con un occhio naturalmente di riguardo anche alla crisi cinese, alla questione greca che abbiamo riaffrontato poco fa. Ma i risparmiatori italiani, come lei sa Alfieri, sono molto affezionati al titolo di Stato italiano, nonostante i tassi di interesse siano bassi, bassissimi. Le aste del tesoro, ce ne sono anche di importanti nei prossimi giorni, continuano a decretare un andamento veramente raso terra, oserei dire. Su questo mercato il vostro giudizio in questo momento qual è? Quello delle obbligazioni governative in termini generali, se poi vuole farci il suo commento anche sulla situazione italiana, noi lo raccogliamo volentieri. Ma sicuramente, come è stato correttamente evidenziato, i titoli governativi in generale europei, ma soprattutto nello specifico in Italia, sono ai minimi storici e chiaramente è una fase molto complessa per l'investitore entrare su questi titoli. Noi non stiamo di fatto consigliando l'acquisto di titoli di Stato perché riteniamo che i rendimenti siano troppo schiacciati. È una fase assolutamente anomala, lo sappiamo, e deriva dal fatto dalle politiche ultra espansive ora anche in Europa. Anzi, abbiamo visto che Draghi ha recentemente adombrato l'ipotesi di un ulteriore allungamento della fase espansiva. Questo ovviamente non farà altro che far mantenere i tassi molto bassi per ancora un po' di tempo in Italia, ed è chiaro quindi che è molto complicato, molto difficile per l'investitore poter accettare questi rendimenti e quindi trovare come soluzione di investimento ovvio il titolo di Stato. Allora, intanto al domandone, visto che tra 3 minuti chiudiamo il nostro programma, devo naturalmente sentire le vostre risposte. Allora, i due precedenti presidenti della Banca Centrale Americana, i presidenti precedenti Janet Yellen. Alfredo da Torino, benvenuto, buongiorno all'800 24 00 24, ci dica tutto. Buongiorno Debora. Dunque, i due presidenti erano stati Alan Greenspan e Ben Bernanke. Alfredo, ottimo direi. Grazie per aver risposto. Allora, quindi, siccome lei ha dato la risposta corretta, io la sento anche da Riccardo, che avrà avuto il suggerimento dall'ascoltatore precedente, ma in realtà lo vedo che aveva risposto correttamente. Riccardo, glielo faccio pronunciare anche lei, insomma, il nome di questi due autorevolissimi presidenti della Federal Reserve. Alan Greenspan e Ben Bernanke. Ottimo. In tempi non sospetti, lo avevo detto. lo so, ma noi l'avevamo presa al volo. Grazie anche a Riccardo, devo dire che in moltissimi avevate risposto appunto correttamente. Noi assegneremo la nostra assegneremo appunto i nostri libri anche mi sta segnalando Marco, Andrea da Milano, quindi siete in 3 come avevamo promesso, e grazie appunto per aver partecipato anche oggi al nostro quizzettone, come lo chiamerebbe la nostra Nicoletta, il nostro domandone. Dottor Alfieri, mercati finanziari, situazione complicata, volatilità alla quale dovremmo mantenerci affezionati ancora probabilmente per molto tempo, lo dite voi, lo dicono molti vostri colleghi, molte società appunto di investimento autorevolissime. Detto questo, però, si continua ad investire. Le vostre scelte di investimento in questa fase quali sono? Da che cosa possono prendere spunto i nostri risparmiatori anche per continuare magari ad avere una sorta di tranquillità, che vedo è la richiesta fondamentale che tutti fanno? Va bene approfittare magari di questi scivoloni di mercato per chi ha un po' di pelo sullo stomaco, magari andare a fare qualche acquisto a sconto, però anche questo, ribadiamo, è sempre un atteggiamento che preferisce abbiano gli investitori professionali, però qualche scelta vincente in questo momento si intravederà da qualche parte. Voi dove le notate? Ma ripeto, dovendo, come dicevo all'inizio, bisogna sempre utilizzare ovviamente dei professionisti, secondo me degli strumenti come i fondi, che sono sicuramente un ottimo strumento di investimento in generale. Noi rimaniamo interessati ai mercati azionari, rimaniamo posizionati sui mercati americani ed europei, ci piace ancora il Giappone, sicuramente per quanto riguarda le obbligazioni, magari corporate e la yield. che sono comunque anche degli strumenti sui quali magari varrà la pena un giorno fare una puntata apposita, perché comunque hanno anche un taglietto di investimento un po' alto magari per un piccolo risparmiatore, per cui però con un fondo di investimento si può sempre attraverso i fondi. Esattamente. Grazie a Lorenzo Alfieri per essere tornato a Investire Informati a Cuore e Denari. Lo abbiamo davvero messo sotto pressione, avevamo preparato una bella scaletta, abbiamo detto tutto e quindi grazie molte. Noi ridiamo la linea ai colleghi della redazione per il giornale radio. Naturalmente domani ritorniamo con Cuore e Denari con Nicoletta Carbone. Da Deborah Rosciani a tutti, buona giornata. Cuore e Denari.